giochi sul nostro tavolo e alla seconda stagione sta cercando un giocatore come te che registri la frase iniziale in maniera divertente e carina. Se anche tu vuoi smettere di sentire questa voce orrenda all'inizio del podcast, mandaci una tua registrazione a giochi sul nostro tavolo @gmail.com. Grazie. Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giochi sul nostro tavolo. Questa è una puntata particolare o perlomeno speciale perché è una puntata indifferita, ovvero ho fatto una domanda agli ospiti che solitamente troviamo su Giochi sul nostro tavolo e ho chiesto loro di registrare la risposta in modo che io la potessi montare per farvela ascoltare. La domanda era questa qua: quali sono i 5 giochi che hanno la migliore resa in base alla spesa? Se prendo quanto ho speso per un gioco e lo divido per quante volte questo gioco è stato giocato, quali sono i giochi che nella vostra collezione hanno questo coefficiente migliore? Quindi con il coefficiente più è basso, più vuol dire che la spesa che ho fatto per un gioco è stata divisa per tante volte le volte che ho giocato. La domanda prosegue e dice: infine vi prego di commentare se questo sia un criterio di indirizzo giusto o no per scegliere di acquistare un gioco. Sono venuti fuori delle cose interessanti che adesso vi faccio ascoltare. La prima che ascoltiamo è quella del dado critico. Ciao Federico, dunque efficienza, ossia costo del gioco fratto numero delle partite giocate, numero delle partite o numero di ore, questo sarebbe interessante approfondirlo. Dunque in questo senso i filler potrebbero vincere a mani basse, perché spesso si accompagnano a un prezzo che oscilla fra i 10 e i 15 euro, quindi alla portata di tutti, e a una meccanica che permette di rigiocare un gran numero di partite, quindi con un gioco di con 15 euro ci giochi 3 partite all'ora, diventa assolutamente efficiente in questo senso l'equazione. In questo senso Coloretto, un gioco come Coloretto per esempio spacca di brutto, perché con 10 euro ti porti a casa l'edizione anniversary, quella già con i camaleonti un pochettino più fighi, col camaleonte dorato, costa 10 euro, te lo porti dappertutto, io ce l'ho sempre inchiodato nel marsupio, ci ho giocato a casa di amici, in pausa pranzo in ufficio, in sala d'aspetto, dal dottore, ci ho giocato veramente dappertutto a Coloretto e penso di essere intorno al gozzilione di partite. Altro gioco molto efficiente che io ho sempre dietro e penso di oramai di averlo ammortizzato, che il gioco mi sarà costato 30 centesimi, Sushi Zok di Knizia. Prezzo mi sembra anche questo intorno ai 15 euro, ci giochi dappertutto, ci giochi con chiunque, ci giochi fino a 4 giocatori, perché poi sarebbe anche interessante frazionare per il numero di giocatori, anche questo sarebbe interessante valutare. Quindi abbiamo detto Coloretto, Sushi Zok, poi ti butto anche in classifica Biblios, perché Biblios, che tra l'altro è un gioco un po' dimenticato, finito un po' già nel dimenticatoio di noi giocatori che maciniamo uno dopo l'altro i titoli che ci capitano davanti, Biblios è un gioco che riesco a riproporre sempre perché funziona per meccaniche sia con i novizi che con i giocatori un po' scafati che ne affinano le meccaniche del bluff, e quindi anche questo ho macinato veramente un sacco di partite nel bilancio prezzo fratto numero di partite giocate. Biblios vince anche in questo caso. Quarto titolo ti butto dentro L'Isola Proibita. L'Isola Proibita cooperativo, riesci a proporlo veramente a tutti, riesci a proporlo anche a famiglie con bambini, si gioca tutti assieme, quindi hai sempre occasione per giocare all'Isola Proibita, contrariamente a Pandemia che richiede di essere un attimino un po' più studiato, un po' più serata, non diciamo dedicata, però invece L'Isola Proibita va via come il pane, un prezzo anche quello, se non sbaglio quando l'ho comprato era attorno ai 24 euro. Quindi assolutamente ammortizzato. Io L'Isola Proibita penso di averci fatto forse un centinaio di partite, non vorrei azzardare. Quindi abbiamo detto fra i filler e Biblios e L'Isola Proibita, che sono forse un pochino più di filler. Parlando di titoli un attimino più corposi, io ti metterei dentro Notre Dame, Istanbul e Libertalia. Lo so che dovevo stare nei 5 titoli, quindi è veramente stretta. Dunque, però non so decidere. La libertà lì è perché, appunto, ha meccaniche un po' più articolate, cioè sicuramente più articolate dei titoli che ti ho detto in precedenza. Però funziona, funziona sempre, funziona in qualunque sera, con amici, scafati, novizi, non vedenti, tutto quello che vuoi. Funziona e di conseguenza per me è ampiamente ammortizzato. Istanbul, durata un'oretta, lo piazzi anche lui dove vuoi. Hai tempo anche di giocare un altro gioco. Istanbul, sembra che prenda dei soldi a parlare bene di sto gioco, però in realtà no. In realtà no, però è un gioco che funziona assolutamente, che per dire al mio anniversario di matrimonio di recente ho fatto 10 anni con mia moglie, mi ha concesso una partita, un gioco un po' più impegnativo dei party game ai quali gioca di solito con me, e mi ha concesso Istanbul e le è anche piaciuto. Quindi funziona veramente sempre, anche con mogli non giocanti. Parlando di quelli un pochettino più corposi, Notre Dame di Feld è un gioco che penso di essermi ripagato. Per dire, da inizio anno penso di averci fa già fatto 6 o 7 partite solo quest'anno, e quindi parliamo di 3 mesi. 6 o 7 partite a Notre Dame, a mio avviso, è già un buon risultato. Poi, come dicevo, sarebbe interessante capire se intendi numero di ore, perché in questo caso, appunto, i filler potrebbero vincere a mani basse, però un numero di ore giocate, oppure numero di giocatori. È una discriminante questa del prezzo? Non lo so, perché io per esempio con Le Havre, che è il gioco probabilmente che amo di più, non ci gioco tanto perché ci devi buttare via tutta la serata, buttare via non in senso buttare via, però ci devi dedicare tutta la serata, però è un gioco secondo me assolutamente ripagato, nel senso quelle serate che giochi in proporzione ti costano di più, ma sono serate assolutamente valide, no? In questo caso è come prendere un buon vino o un vino diciamo da pasto, no? Ti costa di più, però in quel caso vuoi bere bene quella sera, vuoi giocare bene quella sera e vuoi qualcosa di effettivamente più costoso e più buono. In questo ci sta. È una discriminante per l'acquisto? Non lo so. Io su alcuni titoli, però, effettivamente faccio la riflessione: mi conviene comprare questo gioco al quale giocherò poi una volta ogni 6 mesi? Se il gioco vale veramente la pena, come per esempio Kailus, che tiro fuori veramente di rado. Però sono sempre contento di rigiocare, non lo venderei, non me ne disfarei, non disfarei per nulla al mondo, cioè per nulla al mondo no, però sì, assolutamente sì, per quei titoli lì. Per altri effettivamente mi pongo la domanda, vale la pena comprarmi questo gioco? Vale la pena tenermelo? L'interrogativo è abbastanza tosto, non ti so rispondere, essendo uno che compra in maniera abbastanza compulsiva, anch'io mi ritrovo poi un attimino ad fare i conti con dei giochi un po' morti che normalmente finiscono in matrade tramite il vichingo. Grazie, ciao a tutti. E questo era il dado critico che già da subito ha cominciato a smontare questa teoria dell'efficienza, questa teoria per cui i giochi vanno valutati secondo la quantità di volte che si è giocato. Giustamente lui propone anche la parte in cui il riscatto dei cinghiali, ovvero ore giocate costo fratto ore giocate. Andiamo a sentire invece cosa ci dicono Alan e Fabio. A proposito di questa domanda, Allora, siamo stavolta in noi due, io, Fabio e Alan, ciao a Alan. tutti. Ciao, in questa nostra esperienza di collegamenti a distanza. Il tema ce l'abbiamo. Quali sono in pratica i titoli che ci danno la migliore resa, il miglior rapporto qualità-prezzo, in sostanza? Io ti dico subito che ho qualche dubbio sul tema. Sì, anch'io, però svisceriamolo un po', perché è giusto. Dimmi te, Certo, qual è il tuo certo. dubbio? No, il mio dubbio è questo. Allora, io effettivamente devo dire una cosa, che è sempre difficile esprimersi sul concetto di qualità-prezzo, perché comunque è un concetto estremamente soggettivo. E è vero che il tema che ci ha mandato Federico è quali sono i giochi che hanno il miglior rapporto tra il costo e la frequenza di gioco. Questo amplia molto rispetto a un concetto di convenienza in senso assoluto. Sì. Perché questo significa che posso metterci dentro anche un gioco che eventualmente ho pagato 100 euro, ma l'ho giocato 200 volte. Beh, però quello che vuole cercare di capire è che in questo mondo, se il gioco comprato deve essere per forza utilizzato per il suo acquisto, cioè nel senso, se costa 100 euro deve essere utilizzato X volte, se costa 20 euro deve essere giocato in maniera proporzionale, mi segui? Sì, solo che il mio dubbio è questo. Il mio dubbio è che non sono un giocatore normale. Nel senso che gioco un numero di titoli notevolissimo. Perché? Perché poi il fatto di seguire il blog ti porta anche come forma di divertimento autonomo quello di cercare di vedere più cose possibili per cogliere fra di essi quelli che sono i migliori da segnalare agli altri. Quindi questo significa che io ho mediamente decine e decine, a fine anno chiudo con 150 titoli mediamente più o meno, diversi giocati, e quindi non sono tantissimi i giochi che riesco a rigiocare spesso. Sì. Ok. Quindi io per il titolo ho sempre avuto il concetto che per me, diciamo, prendere un titolo in gran parte è come noleggiare una videocassetta o un DVD, nel senso che lo compro, tipo lo pago, non so, 35 euro, poi tanto so che lo giocherò, se piace particolarmente rimarrà in collezione, e questo significa 1 su 10 scarso, 1 su 20, tutti gli altri verranno rivenduti più o meno al 70% del prezzo. Col mercato dell'usato, sì, certo. E quindi per me è come averlo noleggiato, in realtà non esiste, me lo sono fatto da solo il noleggio. Non so, però è chiaro che non vale per tutti questo, però per i titoli dai, cerchiamo di dare qualche suggerimento fisico. Io vado a prendere la mia comincia te intanto con i tuoi titoli, che so che la scaletta c'è. Semplicemente io ci ho un attimo riflettuto su questo argomento e avevo come due punti opposti. Per esempio, quello più costoso che ho fatto meno partite è Space Hulk, che costa 100 euro, un bot, prezzo di listino, prezzo di listino 100 euro, ma poi, visto che è stata fatta una tiratura limitata, lo trovi a 150 euro, sì. Quindi ma immagina che è proprio il top, ed è un gioco a due persone, quindi sì. Immagina quanto sia difficile trovare un'altra persona che si stacca dal gruppo e gioca con te, sì. Okay? Ok? Quindi è un gioco che ha una componentistica bellissima, io l'adoro, ma ci avrò fatto 6 partite in totale, okay. Però questo non comporta il fatto che è un valore negativo, perché quando l'ho comprato, sì, ero conscio di questo, e tuttora prende polvere nel mio armadio, ma è contento di prendere polvere, sono contento che prenda polvere. Poi ogni tanto lo apri, ogni tanto guardi le miniature, sì, lo annuso, lo spolvero, esatto, quindi ho speso i soldi e sono contento, okay. E anche perché io, a differenza magari di altri giocatori, non sono un compratore di giochi compulsivo, io devo provare, lo gioco con qualcuno, poi se lo compro sono cosciente, anche se costa da 10 a 100 euro. Ok, allora hai cominciato con quello, io ne do uno anch'io, ne do un, esatto. Facciamo uno per uno, io dico Zolkin, perché comunque è un gioco che guardando è stato nell'anno di uscita, che era il 2012, è stato il secondo titolo per numero di partite che ho fatto, ci ho giocato abbastanza e periodicamente almeno una o due volte all'anno lo ritiro fuori. E periodicamente quando lo tiro fuori non mi ricordo puntualmente una fischia di come si gioca e quindi ricomincio a scoprirne le strategie. Per quanto all'epoca costasse, perché era un titolo abbastanza costoso, mi sembra sui 40 euro, una cosa del genere, l'ho giocato parecchio e quindi per me è un ottimo rapporto. Vai, secondo tuo. Però qui di rapporto costo, qua parliamo di rapporto di spesa, però cioè, comunque ci hai giocato più di una volta. Esatto, sì, no, per me è ottimo, nel senso che questo qua è uno che ha dato un'ottima resa. Ma ottimo, sì, no, infatti è un gioco fantastico, ho giocato anch'io e mi voglio subito di rigiocarlo appena finito, per dire ho fatto questo, potevo muovermi di qua. Invece quello per me che è stato il rapporto costo e resa, alla fine è un party game, come scontato che sia, cioè 20 euro anno domini, sì. Cioè, l'ho veramente consumato, cioè, lo fai giocare a tutti, alle famiglie, ai bambini, alle coppie, alle ragazze, lo tiri fuori ogni momento ed funziona quello, cioè i filler sono fatti che costano poco e possono essere giocati, sì, sempre, quindi il rapporto qui è super super vantaggioso. Ok, allora io te ne do un altro e ti do Splendor, che tra l'altro all'epoca presi costava di più di adesso, perché l'avevo preso quando ancora non l'aveva localizzato la Asterion, quindi d'importazione mi sembra costava 35 euro, una cosa del genere, ma anche lui è stato il gioco nel suo anno, credo l'anno scorso, che ho giocato di più di 50 partite ci ho fatto, perché praticamente a chiunque lo proponeva ci rigiocavano. È ottimo. Infatti, come dicevi te, è un gioco che comunque è in parte una specie di fillerozzo, perché non è proprio un fillerino, è un fillerozzo, e effettivamente ha reso tanto. Bello con le sue, proponibile un po' a chiunque, bello con le sue fish, eccetera. Vai tu col prossimo. Ma invece io voglio fare un'altra citazione. Cioè, allora, c'è un gioco che costava tantissimo e ci ho giocato poco, un gioco che costa poco e ci ho giocato tantissimo, e adesso ti dico un gioco che l'ho comprato e non ci ho mai giocato. Esattamente. Ok? No, è il top, cioè il top della gamma. E adesso l'hanno tradotto in italiano, adesso, si chiama L'ultimo banchetto, sì. Edito mi sa dalla Giochi Uniti adesso. Io l'ho comprato originale a Essen, perché per illustrazioni semplicemente, sono delle teste di illustrazioni bellissime. L'ho comprato ed era in tedesco tutto testo, ogni carta, 40 carte, con la carta con tipo mezzo word di testo. Non ci ho mai giocato, ma tuttora rimane lì, non lo voglio vendere perché c'ha troppe belle illustrazioni, però mai, zero partite. Ecco, ma vedi che tu in particolare, almeno due dei titoli che hai citato, mi introduci molto quel discorso che mi dai dei temi, no, di riflessione sul discorso che faceva all'inizio. Sì. Cioè, in realtà il gioco si compra anche per altri motivi, si compra anche per collezionismo, perché ti piace i componenti, perché ti piace anche solo vederlo sullo scaffale, e quindi, cioè, probabilmente però io mi aspetto che, io sono un caso a parte, io, perché disegno, mi piace un disegno proprio sui giochi, ma invece te, Fabio, magari che sei uno che se li brucia i giochi, se li divora nel senso buono, sì. Quindi che abbia una grafica decente o abbia una grafica più brutta, a te ti interessa più la meccanica. A me sicuramente, però sono già anomalo nel gruppo degli amici che ho. Nel senso che adesso, proprio nel gruppo più stretto, giocano tutti con me e quindi praticamente viviamo che ogni sera c'è da 1 a 4 titoli nuovi da provare, no? Quindi siamo proprio ormai aperti, rotti a questa cosa qua. Mentre vedo nel gruppo proprio allargato, cioè altre gente che conosco, l'aspetto che domina è quello collezionistico. Quindi, quindi il concetto è, cioè, ne comprano tanti e ne tengono tanti. Cioè, quando io dico che ne compro tipo 100 e ne faccio uscire 95, mi guardano soprattutto con gli occhi così, non per i 100 comprati, ma per i 95 usciti. Perché per loro, fai fatica, cioè, concerti, faccio fatica a fare scambi, perché semplicemente, cioè, su una base di 500 titoli ne danno via 10. Quindi l'aspetto conta, no? L'aspetto collezionistico, gli altri aspetti, cioè, sì. Lo vuoi possedere anche per altri motivi. Tutto lì. Però adesso, tornando al tema iniziale, quello che chiedeva Federico era... Sì? Per noi due, in questo caso, che siamo noi che parliamo, yes. È giusto fare un rapporto prezzo e quantità di volte giocate? Allora, incomincio io. Vai. Secondo me no, perché prima di tutto pensare che il gioco da tavolo sia costoso lo trovo non reale, perché se pensi a quattro persone che vanno al cinema e spendono 40 euro e vanno al cinema per 92 ore, 90 minuti / 2 ore, mentre col gioco puoi tranquillamente giocarci. A meno per me non vale il costo, perché se il gioco vale ci si spende. Per te invece, Fabio? No, su questo sfondi una porta aperta. Cioè, per quanto è chiaro che, come dire, sono d'accordo con chi dice, vabbè, il gioco ha un certo titolo a standard, che componenti standard, perché deve costare 60 euro invece che 40 come tutti gli altri. Questo sono d'accordo, cioè non è che gli darei qualunque cosa. Però, nello stesso tempo, sono convinto che come forma di divertimento non sia, in senso assoluto, un divertimento particolarmente costoso, e più o meno meritano, anche perché la qualità media dei titoli adesso è veramente elevata, cioè ti restituiscono cose che comunque sono del tutto paragonabili al prezzo che costano, perché sono bei componenti, studiati, belle grafiche, come dicevi anche tu, bei componenti, e quindi c'è, cioè, il rapporto qualità-prezzo è alto, mediamente. Chiaro che se poi non ti piace, crolla. Tutto lì. Quasi parli di un rapporto in cui un gioco medio, dai. Sì, no, con gioco medio, sì. Comunque, diamo un altro paio di titoli, perché così almeno chiudiamo la nostra pettina di puntata. Vai, te cosa avevi ancora? No, lascio a te, che io ho fatto i tre punti e già preferisco chiudere qua, che ho fatto i tre punti. Allora, sul costo basso ho Under the Caribic, Under the Caribic, che è stato poi rieditato sotto il nome di Port Royal, è un giochino di carte, senza troppe pretese, che avevo acquistato per 5 euro a Essen. Ci ho giocato, vedo qua, 58 partite, perché poi me le tengo, e quindi il rapporto... Scusa, come ti tieni le partite che giochi? Sì, perché siccome poi me le dimentico, cioè ho una memoria che mi ricordo da qui a lì, e allora più o meno ogni serata che gioco mi segno i titoli che ho giocato, e quindi a fine anno ho l'elenco dei titoli giocati. Fantastico! E quindi ce l'ho qua davanti, infatti mi sta venendo bene questa puntata qui, sempre improvvisando, perché leggo e ho letto che appunto l'anno scorso Under the Caribic, con le 58 giocate, è uno dei titoli che avevo giocato di più. Quindi tutto qua. Però poi ti seguo ancora nel tuo discorso, perché ci sono dei titoli che non sono riuscito a giocare abbastanza, e parlo per esempio di Nations, che ho giocato solo una decina di volte, però lo giocherei molto più spesso, ma semplicemente non ho compagni di gioco che lo vogliono rimettere sul tavolo. Così come Brugge, la stessa cosa, una decina di partite, ma non ho compagni di gioco disponibili. E poi c'è un astrattone che si chiama Ponte del Diavolo, che sono riuscito a giocare... Ah, non conosco. L'aveva fatto l'Ansem Gluck addirittura. A me piace tantissimo quel titolo lì, l'avevo giocato un po' online, però non è la stessa cosa che giocarlo fisicamente, e anche quello rientra nel lungo elenco, nella lunga teoria di titoli che avrei avuto piacere di giocare molto di più, ma che non ci sono riuscito per mancanza di compagni di gioco. Questo perché no, poi, io posso aggiungere su questa mancanza di gioco, se devo aggiungere un altro titolo, è Caos nel Vecchio Mondo, che è un gioco che non può giocare non in tre, non in 5, ma solo in 4. Ed è difficilissimo trovare 4 persone allo stesso livello in una serata che vogliono giocare a un gioco pesantino, almeno nel mio gruppo di gioco. Poi magari te sei più abituato. Ma sai cos'è poi il problema? È questo, che ho notato che ce l'hanno un po' tutti gli amici che sono più o meno acquirenti più o meno compulsivi, o che comunque acquistano oltre un tot di titoli all'anno. Allora, se tu compri 4-5 giochi all'anno, quei 4-5 giochi comunque li giocherai. Sì. Cioè, perché comunque hai investito per 3 mesi, la novità è quella. Allora, se proprio non ti piace, lo metti da parte e lo sostituisci con un altro. Però diversamente, basta che il gradimento sia medio e viene rigiocato più volte. Quando tu compri 15 titoli da 15 in su all'anno, significa che il gruppo si indirizza sui titoli che piacciono di più a tutti. E a volte ti trovi ad essere, magari a te piace un casino, però magari sei diventato troppo bravo e quindi dai troppo margine agli altri, gli altri giustamente a perdere non ci stanno, cioè non è che stanno lì a fare 5 partite a inseguirti a 20 punti per poter diventare bravi. Tutto lì. Sì. Oppure magari semplicemente piace a te quel genere ma a loro no, non riesci a rimetterlo sul tavolo. È difficile trovare un consenso, è quello il problema, no? Quando sei un gruppo molto che ne compra tanti, è difficile trovare un consenso per ripetere un certo titolo più di 7-8 volte, tutto lì. Sì, poi dopo arriva un punto in cui c'è la moda del momento, oppure si vuole esaurire un titolo fino in fondo, mettiamo Tolkien o altro, ti viene voglia di giocare a quel gioco piuttosto che imparare un altro. Esatto. Perché vuoi diventare bravo in quello, essere testa a testa sul singolo punto che tutti sono esperti. Infatti guarda, io nelle mie classifichette, quando vedo che ho giocato comunque più di 5 partite, vuol dire che è un gioco mediamente bello, perché vuol dire che sono riuscito a portarlo al tavolo così tante volte, tutto lì. Sì, e che te l'hanno chiesto gli altri di giocarci. Esatto, infatti in genere poi le mie recensioni si appuntano su quei titoli lì, su quelli che ho giocato più volte, ecco, quelli che magari ho fatto una volta. Guarda, io posso solo impallidire dal numero di partite che fai a settimana. No, penso perché... che ti invidiano tutti qua in questo podcast, diciamo. Va buono. Dai, niente, chiudiamo, perché sennò poi non lasciamo spazio agli altri, diventa una puntata troppo lunga. E un salutone a tutti. Grazie Alan, grazie a Fabio per queste parole, per questi commenti. Chiaramente qui sono venute già subito fuori le due anime del gamer, il collezionista e il divoratore di giochi. Mentre Alan è da un lato dello spettro, cioè quello del collezionista, ci sta attento alle miniature, sta attento alle illustrazioni, anche se è in tedesco con un sacco di parole, dall'altro lato c'è Fabio, che è il divoratore di giochi, compra e vende, l'importante è giocarci e lascia che rimangano solamente i giochi che vengono giocati per più di una volta. Io posso essere solamente che contento di questo esperimento, proprio perché innanzitutto la domanda era volutamente un po' faziosa, direi a favore dei filler, perché chiaramente quando metti numero di partite fatte e prezzo, il filler in questo caso viene fuori come predominante. Il dado lo ha evidenziato subito, chiaramente già nel momento in cui metti le ore probabilmente se la gioca un pochettino più il cinghialone che ti fa giocare per tante ore con un unico, con un'unica spesa. Ad ogni modo, mi fa piacere che questo tema abbia sviscerato un pochettino più quello che è una parte del nostro hobby, la parte economica, e sono contento che alla fine sia palese un po' per tutti che il concetto di quanto spendi per un gioco non deve influire sulla qualità del gioco, ovvero il nostro hobby fondamentalmente è un hobby quasi gratuito. Nel senso che se qualcuno vuole giocare e spendere pochissimo in questo hobby può tranquillamente farlo. Poi è chiaro, ci sarà sempre il collezionista pazzo che compra giochi a gogo e magari ne gioca pochissimi oppure li gioca solamente una volta. Anch'io nella mia collezione ho qualche gioco che ancora non ho mai giocato, conto di giocarci, se non ci gioco probabilmente nell'arco di 6 mesi va nel dimenticatoio e quindi prima o poi finisce per essere venduto anche senza essere giocato. Io personalmente chiaramente prediligo i filler, sono più un uomo da giochino veloce, però devo dire che ci sono alcuni giochi che sono molto impegnativi come Netrunner, ma anche come un vecchio Feld sempre classico che è In the Year of the Dragon, che per un costo che ormai nemmeno ricordo più quanto lo pagai, sicuramente mi ha donato tante partite e tante ore di divertimento. Vi lascio quindi anche a voi a riflettere su quali sono i giochi che siete riusciti a far frullare di più. E ringrazio tutti quanti dell'ascolto, ringrazio chiunque abbia partecipato e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie, ciao! Se oltre a giocare dalla mattina alla sera volete anche gentilmente donarci una sigla di inizio e una di fine fatte da voi, noi lo apprezzeremo moltissimo. Spedite tutto a giochi sul nostro tavolo @gmail.com. Grazie della gentile attenzione.